Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: ieri ampiamente ci siamo occupati del definitivo abbandono di Alitalia da Malpensa, abbandono chiaramente non nelle rotte, alcune rotte resteranno, ma insomma Malpensa non è più l'altro hub di Alitalia. Torneremo a parlarne, anche perché su questo si sta scatenando anche la politica, era immaginabile. Devo dire che, come già abbiamo fatto ascoltare ieri con le parole di Rocco Sabelli, amministratore delegato della Nuova Alitalia, Roberto Colaninno, presidente, i numeri sono inequivocabili, cioè il peso di Fiumicino è il 60-70% rispetto a quello che ha Malpensa, e le scelte di un privato devono guardare in primo luogo ai costi. Poi c'è tutto l'aspetto politico, le promesse fatte, che ne sarà di Malpensa, va bene. Primo fronte. Secondo fronte oggi riguarda i dati auto. Beh, l'auto va, le matricolazioni auto vanno bene soprattutto in Germania, e va molto bene in Germania Fiat. È ovvio a tutti che chi se ne frega del mercato tedesco in senso stretto. In questo momento la cosa più importante è che il successo di Fiat in Germania si sta realizzando nel pieno delle trattative con Opel da un lato, e con l'offerta formalizzata di nuovo e dettagliata ieri di Gas e Magna, tant'è che oggi si è saputo che la data ultima sarà il 20 di maggio per quello che riguarda le offerte. Anche di questo parleremo. Ancora i mercati, dopo lo scivolone di ieri dovuto soprattutto, se non sostanzialmente, al settore bancario, oggi di nuovo deboli le borse, di nuovo Milano tra le peggiori, anche se non con lo scarto di ieri. S&P MIB meno 0,90, MIB del meno 0,80, Parigi meno 0,1 come Francoforte, Londra più 0,5, l'America è positiva di mezzo punto percentuale. Da noi oggi pesa soprattutto Geox, che perde quasi il 10%, Bulgari perde il 4,62%, Tenaris perde il 3,70% e Mediolanum anche, Parmalat meno 3,3 come Telecom Italia, il 2,90 è il calo di Unicredito, il 2,2 di Intesa, il 2 di Eni, l'1,80 di Lottomatica, l'1,2 di Mediobanca e Snam Rete Gas, CIR meno 1,1. C'è però anche chi guadagna oggi: Unipol in netto recupero vicina a un euro operazione più 7,3, Mediaset più 6,2, Pirelli più 5 come Impregilo e come Autogrill, Prismian più 4%, A2A più 3,80, il Banco Popolare ritorna sopra i 6 euro operazione più 3,25%, Finmeccanica sopra i 10 euro operazione più 3% anch'essa, Fiat più 2,90, ST Microelectronics più 2,2, da Le Campari più 2%. L'euro stabilmente a quota 1,36, ultima cifra e poi le notizie in breve, quella per i vostri SMS 349-238-6666. Le altre notizie di questa giornata, oltre ai temi di cui ci occuperemo, tra l'altro dimenticavo di dire che nella seconda parte del programma faremo ascoltare anche alcuni passaggi della conference call di Intesa San Paolo. Il gruppo infatti oggi ha presentato la trimestrale e adesso vi darò qualche anticipazione, e parleremo dell'analisi fatta da Prometeia del 75esimo rapporto sui settori industriali, settore per settore, come dovrebbero muoversi dal 2009 al 2012-2013. Dicevo, le altre notizie, ha parlato oggi di economia europea di nuovo il commissario Joaquín Almunia, anche qui non vorrei partire subito col gufo. Oggi dice la recessione allenta, che insomma rallenta, allenta la stretta, ma restano i rischi. E ancora aggiunge però, attenzione, nell'area euro il calo dell'economia è stato più pronunciato di quanto non ci si attendesse, e vi è un marcato, questo però lo dice la Banca Centrale Europea nel bollettino di maggio, vi è un marcato ristagno della domanda a livello europeo. La ripresa potrà avvenire solo nel 2010, nel graduale ripresa, per cui già ci spostiamo al 2010. E ancora, la Spagna oggi ha visto peggiorare la sua recessione, il PIL nei primi tre mesi ha perso il 2,9%. Tra l'altro domani conosceremo l'andamento del PIL italiano, tedesco e francese, quindi le tre principali economie dell'area euro. E la Spagna aveva avuto un fine 2008 a meno 1,8, ha fatto i primi tre mesi del 2009 con meno 2,9, per cui il peggioramento è netto. Poi l'appello del commissario europeo Almunia alle banche: le banche rivelino, dicano in maniera trasparente a quanto ammontano ste perdite. We are seeing some progress. Financial markets have stabilized. Stiamo osservando alcuni progressi. I mercati finanziari si sono stabilizzati e indicatori recenti lasciano spazio all'ottimismo. Nell'economia reale abbiamo visto segnali positivi circa la fiducia delle imprese e i dati sull'export. Ma dobbiamo essere onesti, anche se ci sono segnali che la recessione sta allentando, non c'è ancora un ritorno alla crescita. Le previsioni economiche che ho presentato la scorsa settimana indicano una contrazione dell'economia europea del 4% nel 2009 e una modesta e graduale ripresa nel 2010. I rischi per questo scenario sono legati alla fragilità del settore finanziario. Per intraprendere il percorso della ripresa dobbiamo concentrarci su alcune misure. La Commissione europea segue attentamente la situazione economica ed è pronta ad adottare ulteriori azioni se necessario. Per ristabilire la fiducia nei mercati finanziari è necessario che le banche rivelino in modo trasparente l'ammontare delle loro perdite e quello degli asset tossici. Solo così i piani di sostegno alle banche da parte dei governi potranno funzionare. È necessario continuare il processo di ristrutturazione delle banche. La crisi non potrà essere risolta semplicemente versando immense quantità di denaro pubblico in un settore bancario malato. Così il commissario europeo agli affari economici monetari Joaquín Almunia. Altri temi, questa volta di casa nostra, Intesa San Paolo, 1 miliardo e 100 milioni l'utile nel primo trimestre, utile netto consolidato, che vuol dire l'utile netto di tutte le controllate del gruppo, un meno 38%, però in deciso recupero rispetto al rosso da 1 miliardo e 2 segnato nell'ultimo trimestre l'anno scorso, quindi è come ieri Unicredito, che ha avuto un calo di quasi il 50% nell'utile, anche oggi un calo rispetto a un anno prima, chiaramente anche oggi Intesa ha un calo del 38% rispetto a un anno fa, ma migliora rispetto alla fine del 2008 e prevede di chiudere l'anno con un risultato in linea con quello del 2008. Tant'è che il numero uno, Corrado Passera, consigliere delegato di Intesa San Paolo, ha detto in conference call sui conti trimestrali: il nostro primo trimestre è andato leggermente meglio rispetto alle attese, quindi siamo più fiduciosi che, rispetto a quanto non fossimo due mesi fa, di poter chiudere l'anno centrando gli obiettivi. Ascoltiamolo in conference call, quindi in inglese. Our first quarter results are a bit above our budget targets. That's the reason why we feel more confident than 2 months ago about our 2009 results. In this light, we confirm our commitments to strengthen the main strengths of ours: high liquidity, low risk profile, low level of complexity. Very practical actions we have taken to invest in these directions, because these are the lessons from the crisis, and we strongly believe that these lessons from the crisis will become the key factor for success in the next phase of sustainable growth, and we are more confident than before on our results. Quindi più fiduciosi di quanto non fossero 2 mesi fa i vertici d'Intesa di raggiungere gli obiettivi del 2009? Specifico a un ascoltatore che non siamo a Torino, la nostra Alessandra Tedesco lo è per il Salone del Libro e alcuni dei nostri programmi vanno in diretta da lì e sono in collegamento da lì, ma noi siamo regolarmente a Milano. A chi scrive al 349-238-6666, arriveremo anche alla borsa. Andiamo avanti con altre notizie in breve, rapidissimi. Crédit Agricole, questa volta non per la partita sulle generali e sull'antitrust e con l'antitrust italiano, ma per il bilancio. Primi 3 mesi dell'anno del Crédit Agricole, meno 77% l'utile netto, che però c'è ed è pari a 202 milioni e non ha dovuto svalutare la sua partecipazione in Intesa San Paolo. Ricordo che la banca francese ha il quasi 6%, il 5,8% di Intesa San Paolo. Mercato europeo dell'auto, dicevamo, e qui oggi il dato è in Europa meno 12%, in Italia lo sapevamo già, meno 7,5% il mese di aprile, Germania, allora, Francia meno 7%, Spagna meno 45%, la Spagna è veramente in questo momento l'anello debole dell'area euro, Gran Bretagna meno 24% e invece a sorpresa Germania più 19%, effetto incentivi chiaramente, ma siamo contenti ed è inutile che polemizziate, noi tifiamo da sempre italiano, poi tifiamo europeo e poi basta. E quindi tifiamo anche Fiat, come tifiamo Enel, Finmeccanica, Eni, piccole società, piccole imprese di questo paese, italiani siamo e italiani resteremo, ma insomma bene il gruppo Fiat, più 5% in Europa le immatricolazioni del gruppo, mentre in Europa Volkswagen fa meno 2, Peugeot Citroën fa meno 14, Ford fa meno 6, Opel, ossia GM Europe con Opel, Vauxhall e Saab fa meno 11 quasi, Renault meno 13, Toyota meno 22, BMW meno 31, Daimler meno 26. Oh, questi sono dati, l'unica che fa più 5 è la Fiat e sale al terzo posto in Europa con una quota di mercato del 10% ex aequo con Ford. Tra l'altro bellissimo il per Fiat, il dato sulle immatricolazioni in Germania, perché anche lì la quota aumenta. Ne parliamo con una voce nota quando parliamo di auto, Paolo Malagodi, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, professore. Buonasera, Barisone. Allora, io lo so che quando ogni volta che parlo di Fiat mi accusano di essere partigiano, io sono semplicemente patriota, mettiamola così. Ma il dato c'è tutto, cioè il gruppo in Europa fa un più 5% con tutti gli altri in calo. Il dato è assolutamente rilevante. Io ragiono, Barisoni, rispetto alla valutazione che ha fatto lei su un dato quantitativo che si riferisce ai 15 tradizionali paesi UE più i 3 dell'EFTA, Europa occidentale. Io ragiono sul dato globale, perché anche se il volume complessivo, la quota di Fiat è leggermente inferiore, è lì che la sua performance di internazionalizzazione, come se mi è consentito dirò, migliora. Perché nel dato dell'Europa allargata, comprendendo quindi anche i nuovi membri UE che anche questo mese hanno, salvo piccolissime eccezioni, un forte calo di paesi come l'Ungheria, meno 50% ed altro, il dato della Fiat come gruppo è di un 9,7, il che conferma che con poca distanza da Ford siamo lì, vicino al terzo posto, anche se sull'Europa allargata sì, siamo al quarto posto. Però ciò che è importante e che noi accusiamo a volte a torto Fiat di vendere molto in Italia e poco in Europa. Beh, non è così vero, perché nel passaggio aprile 2008, quando la quota anziché 9,7 era 8,1 e quota 2009 quando diventa 9,7, sempre Europa allargata, la percentuale dell'Italia nel 2008 era ben, parlo di tutto il gruppo, 59%. Mm-hmm. Mentre nel 2009 54%, quindi abbiamo 5 punti in più di quota internazionale. Questo è valido soprattutto per una marca Fiat, e questo sottolinea ciò che lei diceva, come sia prima marca non tedesca, comprendendo anche Ford e Opel come marche tedesche in Germania, e appena dopo Volkswagen e Ford in Francia, anche lì un ottimo risultato, e significa che la marca Fiat è internazionalizzata nel 2009 per un 50% praticamente, sì, mentre nel 2008 lo era solo per un 44%. Posso provare a sintetizzare? Cioè, lei sta dicendo che adesso una Fiat del gruppo ogni due viene venduta all'estero, certo, ho capito bene? Mentre certo, prima la quota era più bassa. E questo, erano 4 ogni 10. Erano certo, 4 ogni 10, adesso sono 5 ogni 10. E certo, questo è un buon risultato, perché più diversifichi e meno sei dipendente dall'andamento di un solo paese. Certo. Il dato che a me ha sorpreso molto, e chiudiamo poi Malagodi, è la Germania, dove la Germania ha visto aumentare l'immatricolazione nel suo complesso, e però anche andare molto bene Fiat. Beh, in Germania valgono due componenti, il dato dei 2.500 euro di bonus che è ad esaurimento con un miliardo stanziato in più dal governo tedesco, quindi non c'è un termine di tempo, c'è un termine di plafond e quindi c'è una corsa all'acquisto, quindi abbiamo 4 mesi che sono considerati il miglior risultato da 10 anni a questa parte in Germania. Fiat delle vetture di sicuro impatto sul consumatore tedesco, tra le quali mettiamo al primo posto la Fiat 500, una vettura di grande appeal che il consumatore tedesco riceve come eccellente per anche le aree urbane. E questa situazione di Fiat in Germania, ripeto, prima marca estera davanti a Toyota, davanti a Renault, dopo le tedesche, ci fa dire che Fiat non è un'illustre sconosciuta quando si va a trattare la questione Opel in un'area tedesca dove Fiat è la prima marca estera. È questo che poi, per concludere, che mi interessa, perché nel momento in cui tu diventi il primo marchio estero in Germania, certo, la Germania è la patria europea dell'auto e forse anche a livello mondiale non scherza, e quindi dopo Volkswagen e le loro marche e dopo Opel ci sei tu, beh, puoi dire che arrivano gli italiani pizza, mandolino e fichi a comprarti, uno deve stare più attento. Nel frattempo dalla Germania le cose non vanno bene per Opel, il governo sta seriamente pensando a un'amministrazione fiduciaria, quindi al fallimento pilotato, tant'è che oggi già in un'intervista in Germania la bancarotta per General Motors è più probabile, dicono molti operatori, basta che sia rapida. E il governo tedesco, il ministro dell'economia Gutenberg, ha detto i piani di Fiat e i piani del concorrente, ossia Gas e Magna, dovranno essere presentati entro il prossimo 20 maggio. Nel frattempo Chrysler in America chiuderà 790 concessionari entro il 9 giugno, dopo la fusione con Fiat. Grazie a Paolo Malagodi. Noi restiamo in tema di trasporti, come ci chiedono alcuni ascoltatori al 349-238-6666, ma non parlate anche oggi di Alitalia? Ne abbiamo parlato a lungo ieri, ma ne riparliamo anche oggi, perché era praticamente da 11 anni, un po' di meno, ossia un po' di più dal 2008, che andava avanti, dal 1998, che andava avanti una vicenda che si chiama Malpensa. Il 21 ottobre del 98 si insiede il governo D'Alema, il 25 ottobre c'è l'accordo definitivo, ossia Malpensa diventa il secondo hub, il secondo aeroporto di smistamento di Alitalia, e questo 11 anni fa. Dopo 11 anni fa il divorzio, la separazione è definitiva. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più là. Nelle nostre scelte insieme a Sabelli, naturalmente voi lo sapete, c'è una grossa decisione da prendere, importante: Milano, Roma, l'hub, non l'hub. Noi pensiamo che in principale la capitale di un paese debba rappresentare il punto di riferimento principale per queste importanti infrastrutture. La capitale è la capitale. E poi, se poi questa capitale si chiama Roma, credo che la discussione sia finita, voglio dire. Quindi non è che noi, pensando a Roma, pensando a Fiumicino, diamo un giudizio negativo su Malpensa e su Linate. Malpensa e Linate rappresentano un territorio industriale straordinario per l'Italia, come Venezia, come Torino, e quindi certamente nel loro insieme Roma e Milano, ma anche Milano, ma anche Venezia, ma anche Catania, ma anche Palermo, rappresentano una rete che, messa in rete, rappresenta veramente una grande infrastruttura di per sé. Probabilmente rappresenta quello che sarà l'hub del futuro, che fino a ieri rappresentava un territorio, probabilmente in futuro rappresenterà qualcosa di più importante, rappresenterà una regione, rappresenterà una nazione, rappresenterà un territorio sul quale gli individui si muovono con velocità e con mezzi sempre più efficienti. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più là. Roma è la base principale di Alitalia per alcune motivazioni strategiche molto solide. La dimensione del mercato romano, il mercato di Roma è un mercato che vale 4 miliardi di euro, il mercato di gran lunga più importante. Il 60% dei passeggeri che usano l'aeroplano e che vengono in Italia vanno a Roma. Quindi c'ha un traffico inbound, quindi incoming, che è il grosso del traffico di questo paese, del traffico aereo. Roma è anche una destinazione business, ha una componente di clienti con un profilo in maniera crescente, molto business, molto professionale. 8-9%, Milano, l'area del nord, ha tra il 10 e l'11%. Roma ha anche un posizionamento geografico e una situazione infrastrutturale favorevole sotto questo profilo, una posizione baricentrica, certamente verso i flussi nord del mondo, che sono oggi ancora l'80% dei flussi aerei mondiali, ma con un favorevole posizionamento verso i flussi sud del mondo, che sono meno, ma hanno di nuovo un tasso di crescita importante. Lo sviluppo di Linate e la scelta che abbiamo fatta con Linate rendevano incompatibile sotto il profilo industriale, di mercato, finanziario, il posizionamento dell'hub, cosiddetto hub, a Malpensa. Infine, Roma ha un aeroporto che ha la maggiore capacità, l'aeroporto con la maggiore capacità nazionale, 90 movimenti orari. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Arrivederci amore, ciao. E così, dopo 10 anni, quasi esatti, 98-2008, nel 2008 iniziò il trasferimento, ma insomma con ieri si è capito che Malpensa è come Linate, come Verona, è come Palermo e Catania, non è sicuramente più un hub. Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, noi abbiamo usato Caterina Caselli in una versione un po' remix per dire, insomma, insieme a te non ci sto più. Mi sembra di poter dire, poi arriveremo alle altre analisi, che i numeri, già li commentavamo a caldo ieri, presentati da Roberto Colaninno, che avete sentito all'inizio, e poi Rocco Sabelli, che è l'amministratore delegato, siano difficilmente attaccabili. Cioè, questa nuova Alitalia genera il 60-70% del suo traffico, del suo giro d'affari su Fiumicino. È così, certo, anche perché ha scelto più aerei, soprattutto voli intercontinentali, 13 destinazioni da Roma, 3 da Malpensa, ma questa è una direzione che già negli ultimi anni della vecchia Alitalia, con la gestione di Maurizio Prato nel marzo 2008, anche allora fu molto critico e poi fu poi considerato quasi un piano disegnato per qualcuno. Allora si pensava per Air France, ma anche i nuovi azionisti privati della CAI, di cui Air France è un partner, ma comunque hanno deciso loro che Fiumicino, per infrastrutture e per posizione nel traffico, è la destinazione più importante italiana per traffico che arriva dall'estero, sia meglio attrezzato come base aeroportuale, il cosiddetto hub, il centro, il mozzo della ruota che poi è la rete dell'Italia. Allora, Gianni Dragoni, visto che tu, assieme a altri colleghi, ma tu soprattutto, hai seguito in questi 10 anni, forse anche di più, tutte le vicende all'Italia, tutti gli amministratori delegati che si sono alternati, le promesse, ricordavamo noi nel 98, fu in realtà il governo Prodi che poi cadde il 9 ottobre del 98, il 21 ottobre arrivò il governo D'Alema e il trasloco, il decreto fu del 25 ottobre, quindi si dice governo D'Alema, ma tutto il processo fu un accordo tra il governo Prodi e, è inutile nascondersi dietro un dito, la Lega, per dire l'Alitalia sarà l'unica compagnia aerea in Europa assieme a Lufthansa, ma che è un'altra dimensione, un altro mondo e un'altra popolazione, ad avere due hub. L'hub cos'è? È l'aeroporto di smistamento, per cui tutti i voli dovevano arrivare o a Fiumicino o a Malpensa e da Malpensa poi dirigersi in tutto il resto del mondo. Questo non ha mai funzionato e ha prodotto dei danni per l'Italia nel gestire Malpensa stimabili in quanto, Gianni, all'anno? Una stima è stata fatta l'anno scorso quando era Prato presidente dell'Alitalia prima della vendita, parlò di 200 milioni di euro all'anno persi per tenere in vita Malpensa come base di voli intercontinentali e anche internazionali, nel senso che tra aerei da dover portare a Malpensa ma con uno scarso coefficiente di riempimento o con tariffe molto basse per attivare passeggeri, equipaggi da spostare, anche perché uno dei problemi dell'Alitalia comunque è che la maggior parte dei dipendenti sono basati a Roma, eccetera eccetera, quindi si creavano inefficienze, a meno che questi non accettassero di trasferirsi, e non accettavano di trasferirsi per l'antico problema sindacale dell'Alitalia. Quindi comunque effettivamente Malpensa, io concordo da tempo, da molto prima che venisse detto ufficialmente, che come scelta di aeroporto intercontinentale non era una scelta diciamo vincente, ma perché è distante da Milano e essendo comunque Linate molto comodo e ben funzionante, io non dico che bisogna chiudere, ma dico che se Linate è aperto e funziona è difficile che una parte del traffico di Milano sia interessato ad andare a Malpensa, dove poi trova, anche per i limiti dell'Alitalia, è una compagnia sì, in crisi da molti anni, quindi con pochi voli, trova un'offerta di voli intercontinentali molto scarsa. Cioè se probabilmente ci fosse una compagnia che offre 30 destinazioni intercontinentali, dei buoni collegamenti con la città, forse anche Malpensa si potrebbe saturare di traffico. Comunque insomma è inutile cercare come in certe separazioni divorzi di ormai insomma il divorzio c'è stato ufficializzato ieri, in realtà, visto che molti di voi ce l'avete chiesto al 349-238-6666 per l'ultima volta, perché già andò in onda lo scorso 4 febbraio, l'abbiamo fatto riascoltare ieri nella seconda ora del programma, vi facciamo ascoltare Roberto Colaninno, presidente di Alitalia, in audizione al Senato, audizione del 4 febbraio, che racconta in maniera molto schietta, sincera e devo dire quindi secondo me apprezzabile il suo rapporto con Malpensa. Sentiamo. Io sono un affezionato di Francoforte, perché non sono mai io a Malpensa, non sono mai venuto, perché faccio Verona-Francoforte, prendo l'Air Dolomiti, passo lì e siamo a posto, e tutti facciamo così e siamo tutti contenti. Perché? Perché finalmente possiamo andare a Francoforte a volare. E perché Francoforte, tutto sommato, è più brava, è più bella, tutto quello che vuole. E noi stiamo lì, perché io non sono mai andato a Malpensa, guarda. Anzi, sono andato a Malpensa quando andavo in Sud America, perché o andavo a Malpensa o andavo a Fiumicino e tutti i voli partivano da lì. Però partivo alla mattina, partivo alle 3 del pomeriggio e l'aereo era a mezzanotte la sera. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Arrivederci amore. Incredibile, spettacolare Colaninno nella sincerità e schiettezza. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, concludiamo il tema, ossia l'arrivederci amore ciao, come abbiamo usato Caterina Caselli per salutare Malpensa, il saluto di da parte dell'Italia di Malpensa, poi la borsa, poi di nuovo alcuni dati sulla trimestrale di Intesa, e il mondo delle costruzioni e l'andamento dei settori industriali. La borsa, ripeto, ha chiuso con mezzo punto percentuale di calo, molto bene Mediaset, Impregilo e Unipol, molto male Geox, Bulgari e Mediolanum. Gianni Dragoni, si diceva quindi della, dell'abbandono di Colaninno e di Sabelli definitivo di Malpensa come hub. Vorrei però a questo punto leggere anche qualche SMS. Perché al 349 ne è arrivato 238-6666, è arrivato un po' di tutto, soprattutto abitanti di Varese, provincia di Varese, lombardi, furibondi, furibondi anche con Colaninno. Allora, attenzione, insomma, tutto si può dire tranne che Roberto Colaninno non sia del nord, è di Mantova, più padano di lui non so chi ci possa essere. Non stiamo, come sostengono alcuni con grande eleganza, definendomi burattinaio buffone, non stiamo al servizio di Colaninno, abbiamo solo apprezzato la trasparenza, la sincerità. Colaninno ha raccontato quello che fanno il 90% degli imprenditori uomini d'affari che abitano da Brescia fino a Pordenone Udine. Non ce n'è uno, se non obbligato, che vada a Malpensa, la maggior parte va a Verona o a Venezia, vola su Monaco, vola su Francoforte e da lì vola dove cavolo vuole e dove deve andare. Poi se vogliamo dire che uno da bisogna raccontare le favole è un altro discorso. Ma questo è il problema di Malpensa, al di là di Alitalia. Alitalia va anche un altro problema con Malpensa, i 200 milioni stimati di danno annuale nel gestire due hub, due aeroporti, diciamo, di smistamento. Poi c'è chi scrive che Malpensa nasce dall'esigenza di allungare le piste non potendo essere allungabili le nate. Attenzione, Malpensa c'era anche prima, qui parliamo di Malpensa 2000, non fate confusione, c'era anche prima Malpensa e ci atterravano i jumbo anche prima, è un'altra questione, parliamo di Malpensa 2000, del progetto della Lega di avere l'aeroporto del nord. Ha ragione chi invece dice, mi scusi però c'è qualcosa che non torna, ha ragione secondo me perlomeno, altri aeroporti internazionali, Charles de Gaulle da un lato, anche lo stesso Monaco e la stessa Francoforte, Gatwick, Heathrow no, è più vicino a Londra, insomma sono distanti dalla città, non si capisce perché Malpensa, che tutto sommato non è così distante da Milano, è più distante di Fiumicino da Roma, ma non è così distante, debba essere così danneggiata. E io da questa domanda vorrei ripartire con Gianni Dragoni. Gianni, il punto è tutto qui, se mi rispondi in un paio di minuti, perché Malpensa non ha funzionato? Lascia stare però l'Italia. Il punto principale è la distanza da Milano. Intanto Malpensa è più distante da Milano, io lo dico, vivo a Roma, ma non sono di Roma, quindi non ho simpatie, cioè non ho preferenze da questo punto di vista di partigianeria, però faccio un esempio che può essere chiaro a tutti. Una corsa in taxi da Roma a Fiumicino, che non è vicino a Roma, costa 40 euro, tariffa bloccata, può arrivare, sì, 50. Certo. Una corsa in taxi da Milano a Malpensa costa 80. 85 euro, certo, la tariffa fissa. E quindi non credo che sia solo perché il taxi a Milano è più caro che a Roma. No, sono tariffe diverse, distanze diverse. Sì, però questo dà già l'idea comunque, certo, del tempo, della cosa. Poi magari il treno che non arriva a Malpensa, cioè uno all'aeroporto di Lione arriva il TGV dentro, da noi uno deve cambiare alla centrale, prendere la metropolitana per Cadorna, da Cadorna prendersi il trenino, a questo punto voglio dire... L'altro aspetto è che se Malpensa fosse collegato molto bene alla sua principale, diciamo, potenziale fonte di passeggeri, di traffico, che in questo caso è Milano, con un treno veloce, efficace, come sono Heathrow con Londra, sì, Charles de Gaulle, Roissy con Parigi, Schiphol con Amsterdam e così via, probabilmente sarebbe più appetibile per i passeggeri, quindi questa è un'altra ragione per cui non ha funzionato. Se aggiungiamo a questo, se ho ancora tempo nei due minuti, il fatto che poi molto più vicino a Linate c'è un aeroporto, a Milano c'è un aeroporto comodissimo che si chiama Linate, dove molti possono portare passeggeri anche sugli altri scali, dove trovano offerte di voli molto più interessante che non di Malpensa per voli intercontinentali, ecco perché il lancio di Malpensa diventa un'impresa quasi impossibile. Sì, e poi stai dimenticando Bergamo, qui si vede che tu non abiti al nord, perché da certe parti di Milano si raggiunge, sì, molto più comodamente Bergamo in tutta la parte est e sud che non Malpensa per via della Milano Laghi. Insomma, la colpa non è di chi gestisce Malpensa, non è che abbia il potere di farsi arrivare il treno delle Ferrovie dello Stato però è indubbio che è nata male ed ha proseguito peggio quell'aeroporto, e vedremo, è in bocca al lupo, come abbiamo già detto personalmente a Bonomi, a Giuseppe Bonomi, che è l'amministratore delegato, che abbiamo avuto il nostro ospite 2 settimane fa, nelle trattative con Lufthansa, negli accordi bilaterali. L'Alitalia dovrà mollare qualche slot e il governo dovrebbe insistere un po' di più con l'Alitalia perché molli alcuni e vada avanti con le trattative bilaterali. Grazie a Gianni Dragoni. Devo fare la borsa adesso, anzi prima le informazioni per chi è in viaggio. Sono di Brescia, mai usato l'orribile Malpensa. Oh, adesso che è la guerra tra comuni del nord, no. Di nuovo in diretta, allora, leggerò anche alcuni messaggi arrivati. La borsa, devo dire che oggi la borsa per fortuna non ha avuto variazioni percentuali enormi, meno 0,4 alla fine, più 0,1 a Francoforte, a Parigi scusate, più 0,2 a Francoforte, più 0,7 a Londra, l'America mezzo punto percentuale. Si sta scatenando una guerra, diciamo, dei comuni sulla vicenda Malpensa. Allora, da Torino volo sempre a Francoforte, scrivono i piemontesi. Un aeroporto malpensato, scrive Robert, complimenti anche a lui. Ma non è vero, li stiamo facendo i collegamenti per Malpensa. Sì, amore, un po' tardi, però lo dico a chi scrive, perché insomma è dal 98 che sono chiuso l'accordo, sono passati 11 anni. È un po' tardi e ormai mi sembra che i buoi, perlomeno quelli con la livrea dell'Alitalia, siano già scappati. Nessuno ha mai detto, lo dico ai romani che scrivono, che Malpensa sia lontana come Fiumicino. È molto più lontana dalla città e lo si vede con i taxi, perché il taxi costa più del doppio, 85 euro tariffa fissa contro i 40 euro di Roma tariffa fissa. Possiamo adesso chiuderla qui con Malpensa, direi, insomma, e parlare di borse, quindi di come ha chiuso questa volta non Malpensa ma il mercato. Al di là del mezzo punto percentuale di calo c'è un tonfo di Geox, meno 9%, poi Bulgari meno 4 come Mediolanum, Metenaris, poi Parmalat che perde meno 3,6, Telecom meno 3, Unicredit meno 2,90, Lottomatica meno 1,90, CIR meno 1,5 come Eni. Molto bene Mediaset, più 6,4, Impregilo più 5,80, Unipol più 5,2, Pirelli più 4,4, Autogrill più 4,3, Prismian più 3,7, A2A più 3,3 come Finmeccanica, il 2,90 la guadagna Fiat, il 2,70 il Banco Popolare, il 2% e rialzo di Saipem e delle Campari. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Radio Cori sulle 24 ore. Allora, Mediaset da un lato e dall'altro invece Geox. Sì, allora Mediaset ha guadagnato il 6,4% ed è stata la migliore del paniere principale a Piazza Affari. Allora, dopo la diffusione dei conti il 12 maggio sono arrivati giudizi positivi di alcuni analisti, tra cui Deutsche Bank, che ha assegnato giudizio comprare al titolo alzando il prezzo obiettivo a 5 euro, e JP Morgan ha alzato il giudizio da neutrale a sovraperformare, quindi sovrappesare. In particolare la banca d'affari tedesca ha premiato il miglioramento della raccolta pubblicitaria, che per fine anno è attesa a meno 9%, sempre in calo, ma comunque miglioramento rispetto al meno 13% del primo trimestre per i ricavi pubblicitari televisivi lordi. I conti invece hanno penalizzato per contro Geox, che è stata la peggiore del paniere principale, ha perso quasi il 9%. Allora, la società ha chiuso i primi tre mesi con un calo dell'utile a 72,4 milioni da 80,1 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente, ma ha stimato un calo del 13% rispetto al scorso anno del portafoglio ordini per la stagione estate-inverno. Il gruppo comunque si è detto fiducioso sulle future opportunità di crescita e il management ha detto di prevedere una chiusura per il 2009 con vendite in linea con quelle dell'anno precedente. Ti interrompo un secondo perché è arrivata una notizia che riguarda Intesa, il rapporto generali Crédit Agricole e il ruolo di Banca Intesa. L'antitrust infatti a questo punto ha avviato un procedimento ufficiale nei confronti del gruppo Intesa San Paolo dopo l'accordo tra Crédit Agricole e Generali. Secondo il garante, infatti, non è stata garantita la necessaria indipendenza con la banca francese, come prescritto dall'autorità. Ne abbiamo parlato ieri, non possiamo tornarci, è la quota che l'Agricola nelle Generali, la quota che l'Agricola in Intesa. Insomma, il procedimento dovrà chiudersi entro l'11 ottobre, ma insomma l'antitrust, poi vedremo aggiornamenti. A questo punto ha aperto un'inchiesta ufficiale, ho ancora 30 secondi. Allora, Livia, visto che poi il tuo commento, la tua analisi e anche la tua voce è molto apprezzata, ci risentiamo dopo il GR. Due cose rapidissime. Stavo sorridendo prima perché c'è ancora chi su Malpensa dice: ma perché chi non ha, nessuno ha mai pensato di volare da Linate, da Verona, da Bergamo su Malpensa? Cos'è? Un volo di 25 minuti. E poi c'è invece una cosa molto molto interessante, visto che ci chiedete anche del settore auto, le immatricolazioni in Germania. Ripetiamo il dato: molto bene la Germania, più 19, Fiat più 5, diventa il primo marchio estero in Germania. Durato poi solo pochi minuti per un giovane automobilista tedesco, il sogno di guidare una fiammante Audi decapottabile. Ha messo infatti 23.000 euro in contanti necessari per acquistare l'auto sul sedile posteriore, si è dimenticato con una cabriolet e sono volati in tutta l'autostrada sulla A2. E questa è la notizia divertente. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere adesso l'approfondimento sulla borsa e poi passare a Intesa e al settore delle costruzioni. Livia Zancaner, partiamo subito da Intesa. Al di là della notizia che vi abbiamo dato in diretta, ossia che l'antitrust per quello che riguarda le partecipazioni azionarie Intesa, Generali, Crédit Agricole, ha aperto un'inchiesta ufficiale, un procedimento di inottemperanza che deve chiudersi entro il prossimo 11 ottobre. Il titolo oggi Intesa ha diffuso la trimestrale che ha visto un miglioramento dei conti, lo dico rispetto soprattutto all'ultimo trimestre del 2008, nel senso che nei primi tre mesi del 2009 l'utile netto consolidato, quindi tutte le controllate del gruppo Intesa San Paolo, è stato pari a 1 miliardo e 100 milioni, con un calo del 38% rispetto ai primi tre mesi del 2008, ma in netto miglioramento rispetto al rosso, alla perdita da 1 miliardo e 2 registrata negli ultimi tre mesi del 2008, tant'è che il numero uno, Corrado Passera, ha detto: dopo questi risultati un po' al di sopra dei nostri obiettivi, siamo più fiduciosi rispetto a due mesi fa sul raggiungimento dei risultati nel 2009, e quindi abbiamo intrapreso anche azioni molto pratiche per avere alta liquidità, basso profilo di rischio e un basso livello di complessità. Ascoltiamolo in inglese nella conference call che è terminata poco fa. Our first quarter results are a bit above our budget targets. That's the reason why we feel more confident than 2 months ago about our 2009 results. In this light, we confirm our commitments to strengthen the main strengths of ours: high liquidity, low risk profile, low level of complexity. Very practical actions we have taken to invest in these directions, because these are the lessons from the crisis, and we strongly believe that these lessons from the crisis will become the key factor for success in the next phase of sustainable growth, and we are more confident than before on our results. Così Corrado Passera. Livia Zancaner, tornando alla borsa, come ha reagito Intesa San Paolo ai conti? E poi vediamo di Mediaset e Geox, abbiamo già parlato, poi vedremo anche ad altri titoli. Sì, allora, subito dopo la pubblicazione dei conti, il titolo era girato in territorio positivo, per poi però chiudere con una flessione dell'1,28%. Allora, in linea di massima, quindi il mercato ha apprezzato il fatto che la banca si aspetta nel 2009 un utile non molto inferiore al 2008, come scritto appunto nella nota della società sui conti trimestrali, e quindi probabilmente per questo che il titolo ha girato subito in territorio positivo dopo i conti. Ancora Unicredito invece, che i conti li ha diffusi ieri, anch'essi in miglioramento, però il titolo oggi ha sofferto un altro meno 2,9% a 1,89 euro. Sì, allora bisogna dire che i bancari oggi a Piazza Affari hanno viaggiato a due velocità dopo la forte flessione della vigilia e i guadagni dei giorni scorsi, quindi appunto le vendite hanno colpito ancora Unicredit, che ieri aveva già perso il 7,6% circa. La società quindi ha mostrato nel trimestre un utile netto consolidato di 447 milioni, che è in calo del 55,6%, ma è in linea con il consenso degli analisti. Per contro, il Banco Popolare invece chiuso in territorio positivo dopo un avvio di seduta pesante, almeno 13,5% di ieri, ed è in attesa dei conti che verranno diffusi domani mattina a mercati chiusi, cioè prima dell'apertura dei mercati. Ancora un paio di titoli, le variazioni le abbiamo ricordate prima. Per quello che riguarda Bulgari, ce lo chiedete, meno 4,2, meno 4,1 mediolanum, i migliori e peggiori. Geox, devo dire appunto, è il secondo peggiore in assoluto, meno 9%. Poco altro in Dada, meno 5,7, Sokotan meno 7,2, i migliori Pirelli Real Estate più 19%, Risanamento più 19%, Gemina più 8%, Astaldi più 6,4% e poi di Mediaset. Abbiamo detto bene oggi tutto il settore costruzioni, Livia. Sì, allora infatti il settore costruzioni in Europa è andato bene, ha realizzato una delle migliori performance e ha guadagnato l'1,8%. A Piazza Affari quindi ne ha beneficiato in particolare Impregilo, che ha guadagnato il 5,8%, registrando una delle migliori performance del paniere principale, ma in realtà a spingere le azioni in pregiro sono stati anche i conti pubblicati ieri, che hanno mostrato una crescita di ricavi e risultato netto, e inoltre il gruppo ritiene di poter mantenere i profili di redditività operativi in crescita sul 2008 per l'esercizio in corso. E di costruzioni, di settore costruzioni, oggi si è parlato a Roma nel corso dell'assemblea dell'ANCE, cioè l'Associazione Nazionale Costruttori dell'Edilizia, che raggruppa oltre 20.000 imprese del settore, e il settore non sta attraversando sicuramente un bel periodo. Grazie intanto a Livia Zancanera di Radio Cori, Sole 24 Ore. Allora parliamo dell'economia italiana partendo proprio dall'edilizia. Mila imprese, 2 milioni di addetti, l'11% del PIL, questa è la fotografia del settore delle costruzioni. L'ANCE, appunto l'Associazione Nazionale, parla di crisi devastante, a rischio 250.000 posti di lavoro, e a questo punto lo stesso presidente dell'ANCE, nel suo intervento oggi agli Stati Generali delle Costruzioni, ha chiesto un piano casa in maniera abbastanza rapida e veloce, un piano casa definito irrinunciabile. Ascoltiamolo al microfono del nostro Andrea Viali. L'allarme è quello della crisi che morde il settore dell'edilizia, con il rischio, se non ripartono subito le cose che vanno fatte, 250.000 disoccupati sono le nostre stime a fine anno, e la chiusura di molte piccole aziende che sono poi il cuore portante della nostra industria. Ma non è detto che questo debba accadere, perché ci sono molte cose importanti che stanno sul fuoco da fare nell'interesse del paese. Le infrastrutture di cui abbiamo bisogno, le opere, anche un piano straordinario di opere piccole e medie, dalle scuole dove rischiano la vita i nostri figli, voglio dire quelle che devono essere mantenute, senza retorica, lo dico perché è vero, a quelle di manutenzione del territorio, che è un territorio da risistemare, all'edilizia sociale. Quindi le cose da fare, il piano casa, l'abbattimento e ricostruzione di edifici importanti, come abbiamo visto anche in Abruzzo, che crollano gli edifici pubblici. Allora, voglio dire, c'è tantissimo da fare nell'interesse del paese per mantenerlo competitivo. L'industria delle costruzioni può creare occupazione e rispondere. In realtà qualche garanzia era arrivata ai costruttori durante l'intervento agli stati generali delle costruzioni del Presidente del Consiglio Berlusconi, che parlando del piano casa ha detto: spero che domani arrivi, già da domani nel Consiglio dei Ministri, l'approvazione del piano casa, che dovrebbe mettere sul mercato una cifra tra i 70 e i 150 miliardi in 18 mesi. Il decreto per la semplificazione che dovremmo portare in Consiglio dei Ministri domani mattina. È in corso la conferenza Stato, Regioni, Province e Città, che sta mettendo a punto il decreto per la semplificazione. Spero che entro questa sera si possa trovare un accordo. Domani mattina il Governo approverà questo decreto che vara quella misura del più 20% per le abitazioni monofamiliari o bifamiliari e per la ricostruzione di vecchi edifici, sempre secondo le nuove tecnologie che riguardino ai risparmi nell'utilizzo di energia e alle riduzioni delle emissioni di carbonio. Così il Presidente del Consiglio, e dopo le informazioni per chi è in viaggio resteremo a parlare di economia e di settori industriali italiani, da un lato perché oggi la Commissione Europea e anche la Banca Centrale Europea hanno detto: beh, la crisi è terminata nella sua parte più virulenta, ma ha colpito l'Europa, l'area euro più di quanto non si immaginasse; dall'altro perché è uscito un rapporto, il 75esimo rapporto Prometei e Intesa San Paolo, che va a fotografare le dinamiche dei vari settori industriali da qua al 2013. Minuti di nuovo in diretta, ultima parte di Focus Economia. Dicevamo che oggi sono usciti, oltre che i dati, le preoccupazioni del mondo dei costruttori, anche i dati e le previsioni della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea. Rapidamente, che cosa ha detto la BCE? Ha detto che per quello che riguarda il modo in cui questa crisi sta mordendo in Europa, la domanda interna, quindi i consumi, resteranno fermi in ristagno fino al 2010, con una graduale ripresa che purtroppo l'economia dell'area euro ha continuato a indebolirsi e in questi primi tre mesi in maniera più pronunciata, più forte di quanto non previsto due mesi fa. Almunia, il commissario europeo, ha detto: la recessione allenta ma restano i rischi, e poi ha chiesto alle banche di essere trasparenti, di ammettere, pubblicare una volta per tutte le loro perdite. Questo ci serve anche come spunto per ragionare su quello che sarà la prospettiva del settore dell'industria italiana, industria in senso stretto, quindi in primo luogo manifatturiera, visto che è uscito il 75esimo rapporto analisi dei settori industriali realizzato da Prometei e Intesa San Paolo. Siamo in collegamento con il curatore Fabrizio Guelpa, che è anche responsabile della parte industria e banche per il gruppo Intesa San Paolo. Buonasera Guelpa. Buonasera dottor Barisoni. Non parleremo con lei della trimestrale, abbiamo già sentito infatti le dichiarazioni dell'amministratore delegato Corrado Passera. Parleremo dell'analisi che voi, come tutti i grandi gruppi bancari, fate dei settori industriali, perché poi vi servono come supporto per aprire linee di credito, che ci auguriamo essere sempre più consistenti, verso le piccole e medie imprese soprattutto, e analizzare le prospettive. Allora, veniamo dai primi tre mesi del 2009, che sono stati devastanti per i dati macroeconomici: meno 21% la produzione industriale, meno 20% l'export, meno 30% gli ordinativi, meno 20% il fatturato. Ora, peggio di così non si può andare. Quindi la prima domanda è: secondo lei, secondo il vostro rapporto, come si chiuderà il 2009? Parte di questi numeri molto negativi per la prima parte dell'anno e per la parte finale dell'anno scorso sono dovuti a un effetto scorta. Le imprese sono state in qualche modo prese alla sprovvista, avevano troppe scorte di materie prime e quindi sono trovate costrette a produrre di meno, di qui il crollo della produzione. In ogni caso, se nel corso dell'anno questo effetto scorte si azzererà, però il 2009 è sicuramente un anno dal punto di vista dell'industria molto negativo. Noi abbiamo una stima di fatturato per il manifatturiero con un meno 12%, quindi un numero molto negativo, il crollo più grosso dalla fine della guerra, e una previsione di un 2010 sostanzialmente stagnante attorno allo 0% e una ripresa soltanto in seguito nel 2011-2013 con un 1,7%, sto parlando di cifre in termini reali all'anno, quindi una ripresa per il momento abbastanza modesta e se ci poniamo in ottica di medio termine, se queste cifre verranno realizzate, avremo al 2013 un'industria manifatturiera che produrrà grosso modo il 10% in meno di quanto faceva prima della crisi, quindi una contrazione molto pesante. Ecco, allora, chiariamo le cifre. Le cifre che lei ci ha appena fornito riguardano il settore manifatturiero, giusto? Esatto. Non il PIL complessivo del paese. No. Quindi voi dite 2009... anno pesante, meno 13, anche meno 17, anche meno 17 avete stimato voi? Sì, 17 in termini nominali, mettendo dentro perfetto prezzi, in termini quindi, reali, quindi deflazionati, al netto dell'inflazione. Al netto dell'inflazione siamo a un 12%. Ok. La grossa differenza rispetto al PIL e anche ai numeri che sono stati prodotti all'esterno del Fondo Monetario è che questa crisi colpisce in particolare l'industria e non il mondo dei servizi, colpisce il commercio mondiale, colpisce gli investimenti e l'industria in questo momento che sta soffrendo. Quindi questo divario tra PIL, quindi certo, tutti i settori, e l'industria è giustificato. Perfetto, quindi perfetto si fa per dire, ma insomma è chiaro che il manifatturiero è quello più colpito dopo la borsa e quindi i titoli bancari, ma è quello più colpito dalla recessione 2009 e stagnazione 2010, mettiamola così, perché anche a livello di PIL complessivo non è che il 2010 sia un anno esaltante, più 0,1, più 0,3, siamo sempre forse in stagnazione. La grande differenza è che nel 2010 c'è una sorta di appaiamento delle dinamiche tra l'industria e il manifatturiero. E comunque la parola giusta, come dice lei, è stagnante, un anno dove non si cresce. Chi soffrirà di più saranno gli imprenditori manifatturieri. Esatto. Questo mi sembra che sia fuori discussione. Tant'è che voi dite un meno 13% reale nel fatturato, che poi è quello che interessa, cioè il giro d'affari finale del 2009, meno 17 se non si tiene conto dell'inflazione, insomma, al netto dell'inflazione meno 13, e ancora nel 2013, e qui voglio dire c'è un animale che insomma si sta risvegliando dall'albero, ma nel 2013 ancora, nonostante il recupero delle prospettive economiche generali, l'industria manifatturiera avrà l'industria avrà un fatturato del 10% più basso rispetto al 2007? Esatto, malgrado una crescita dell'1,7 medio nel 2011, nel 2012, 2013, quindi anni di comunque che si va relativamente bene, quanto abbiamo perso essenzialmente nel 2009 e un po' nel 2008 porta a un risultato cumulato di questa dimensione. Un'industria più piccola, sicuramente più piccola, probabilmente più agile, perché in questi anni di difficoltà le imprese cercano di ristrutturarsi e ci sarà purtroppo anche qualcuno che dovrà uscire dal mercato, non possiamo nasconderci. Insomma, però io vedo già i messaggi, è chiaro che viene evocato, ma dire che l'industria italiana manifatturiera nel 2013, cioè fra 4 anni, avrà un fatturato comunque, nonostante il recupero, nonostante la ripresa, di un 10% inferiore in termini reali a quello del 2007, ha risvegliato prepotentemente il nostro animale. Voglio dire, se non si sveglia il gufo, mi scusi, dottor Guelpa, con queste previsioni non so quando si possa svegliare. Veniamo ai settori. Il gufo è un esorcismo, glielo dico. Insomma, ci auguriamo che in questo modo non avvenga, non sappiamo più a cosa aggrapparci. Veniamo ai settori, perché il dato è generale e complessivo, poi abbiamo visto in realtà che a perdere sono stati in questi mesi, oltre al settore dell'automotive, quindi le quattro ruote nel complesso, anche tutto il settore acciai, alcune industrie pesanti hanno ottenuto più, altri settori industriali. Adesso non possiamo tornare sul tema. La vostra previsione qual è? Beh, facciamo prima a parlare di quelli che vanno bene rispetto a quelli che vanno male. Nel breve termine, diciamo. Lei vuole il gufo ogni risposta, prego. Nel 2008-2010 reggono i settori che sono legati ai bisogni primari, quindi il largo consumo, che vuol dire essenzialmente prodotti per la pulizia, la farmaceutica, l'alimentare, sono quelli che stanno attorno a una crescita zero, diciamo. E poi dopo ci sono tutti gli altri che hanno appunto questi andamenti fortemente negativi, tanto da avere questo risultato complessivo molto in rosso. Se però ci spostiamo, cioè dopo il 2009 che abbiamo visto come andrà, il 2010 è stagnante e entriamo in un'ottica di un mercato mondiale che riprenderà a crescere, c'è una prospettiva migliore per una serie di settori che possiamo definire come mid-tech, che sono, quindi con livello tecnologico intermedio, che sono essenzialmente concentrati nel mondo degli investimenti, sono la meccanica, sono l'elettrotecnica e anche il comparto auto e moto. Questi quindi, sono quelli che potrebbero andare meglio, quindi mondo dove c'è un discreto contenuto di tecnologia, dove c'è poca tecnologia continua a esserci una forte concorrenza dall'estero, quindi ancora maluccio la moda, i mobili che stanno soffrendo molto, ma l'elettronica dove c'è la tecnologia sicuramente c'è, ma non siamo come italiani in grado di competere. Sì, poi dottor Guerra, bisognerebbe anche dire che le banche hanno la loro responsabilità nell'aiutare le imprese, concedere crediti, assumersi qualche rischio in più, finanziare le idee, non solo diciamo le garanzie, ma questo è un altro discorso e sarebbe troppo lungo affrontare adesso, anche perché abbiamo esaurito il nostro tempo. Grazie a Fabrizio Guelpa, che per il gruppo Intesa San Paolo ha curato il rapporto analisi dei settori industriali. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto. Stiamo facendo ascoltando diverse previsioni, lo dico a chi scrive. Tra queste arriverà e tornerà prima o poi anche l'astrologa. Per ora buonasera e ci risentiamo domani dalle 17 in poi.